24 di Giovanni Minoli. Io non te dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. Ho comunicato ai miei consiglieri di aver accettato le dimissioni dell'assessore Paola Muraro. La stessa mi ha comunicato infatti di aver ricevuto da poco un avviso di garanzia. Roma non fa la stupida stasera. Violazione delle norme ambientali, questa l'accusa per l'ormai ex assessore all'ambiente di Roma. Agli senti che quasi primavera. Il dottor Marra, come ho sempre detto, è uno dei 23.000 dipendenti capitolini e non un esponente politico. Più malandrino che c'hai. Virginia Raggi ha abbassato la testa di fronte alle richieste del capo ed ha rinunciato ai suoi fedelissimi, il capo della segreteria politica Salvatore Romeo e il vice sindaco Daniele Frongia. Voglio essere chiara, l'amministrazione va avanti. Roma sfogliata dei suoi tanti amori. Allora, Michela Di Biase, buongiorno, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Roma. Dunque, il Movimento, per provare a riassumere, il Movimento 5 Stelle ha risolto la crisi costringendo la Raggi a mandare a casa il suo vice sindaco e il suo segretario politico. A Grillo basta, a voi anche mi pare. No, non ci basta, anzi troviamo grave che si sia usciti da questa impasse attraverso il commissariamento della sindaca. Penso che sia un atto piuttosto serio per la città. Però lei non ha detto espressamente: non chiediamo le dimissioni della Raggi, perché? Noi non chiediamo le dimissioni della Raggi perché le responsabilità della Raggi sono in capo a lei e al Movimento 5 Stelle che l'ha candidata. È stata scelta dal 70% dei romani poco più di 6 mesi fa. Il Partito Democratico, io penso che debba tornare ad ascoltare quello che la città gli dice. Se lei va in giro per i nostri quartieri, le assicuro che i cittadini, la frase che ancora dicono è lasciatela lavorare. Io penso che noi questo dobbiamo fare, Senta. Lasciarla lavorare, portando a casa quello che è passato in secondo piano, ma che in realtà la cosa più importante che noi stiamo facendo questi giorni, ovvero votare il documento di bilancio che scade il 31 dicembre. Senta. La Raggi comunque ad oggi non è indagata, ma dava copertura totale a Marra e questo per voi non significa nulla. Marra, lo ricordo, è attualmente in prigione. Per noi significa moltissimo, tant'è che noi proprio sulla vicenda Marra abbiamo utilizzato parole serissime, abbiamo chiesto più volte in questi mesi alla sindaca di venire a riferire sulle scelte che ha fatto, perché vede, oltre a essere insomma figura assolutamente oscura Marra, oltretutto rivestiva un ruolo di primissimo piano. No, d'accordo, ma però insomma diciamo che la Raggi, la giunta Raggi dura. Sì. Sì, per ora dura, diciamo. Lei ha detto proprio adesso un tweet in cui dice: se mi arrivasse un avviso di garanzia io valuterò. Sì, no, ma su questo allora io sono convinta che qualora arrivasse un avviso di garanzia il sindaco Raggi non si dimetterebbe dal suo incarico. Ora noi non siamo non si dimetterebbe, dice, non secondo me assolutamente no, non si dimetterebbe dal suo incarico. Oggi c'è un'intervista. Ma la Muraro l'ha fatta dimettere? Comunale. Scusi, la Muraro l'ha fatta dimettere. Allora, la Muraro l'ha fatta dimettere, stanno già diciamo nella posizione del Movimento 5 Stelle, prima vicenda Raggi. Il sindaco Raggi, e questo lo hanno detto anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, qualora ci fosse un avviso di garanzia non si dimetterebbe, perché si tratterebbe di un atto dovuto rispetto a quella che è la vicenda delle nomine. Cioè c'è avviso, scusi, c'è avviso di garanzia e avviso di garanzia, allora? Due tipi di avviso di garanzia. Noi siamo abituati alla doppia morale. Del Movimento 5 Stelle, noi siamo abituati alla doppia morale, però io su questo ci tengo a dire che il Partito Democratico non ha mai chiesto le dimissioni di nessuno perché è arrivato un avviso di garanzia. Quindi non le chiedereste? Sì, non le chiederemo su un avviso di garanzia. Va non bene. È questa la base politica su cui si chiede a un sindaco di rassegnare le dimissioni. D'accordo. Io penso che noi dobbiamo utilizzare un altro linguaggio rispetto a quello che utilizza il Movimento 5 Stelle. Non è il problema dell'avviso di garanzia. L'avviso di garanzia solo in Italia vale a dire che ha un atto. No, ma certo, questo lo sappiamo. Altra cosa è quella che è successa a Marra, che è stato arrestato. Vabbè, e quella è un'altra cosa. Per corruzione, insomma, lì certo. E invece chiediamo al sindaco di rispondere politicamente su questo, perché il fatto che lei non sappia scegliere quelli che sono i suoi collaboratori. Senta Di Biase, ma lei crede che si capisce perché la Raggi non si deve dimettere? Invece Marino è stato mandato a casa con un voto siglato dal notaio addirittura? Allora, io su questo penso che se noi lo spieghiamo bene... È difficile da capire, I cittadini lo capiscono. Allora, Marino è stato mandato a casa, sì. E anche questa cosa dell'atto del notaio è abbastanza curiosa, perché per mandare a casa un sindaco esiste, e quindi che può avvenire attraverso le dimissioni. Vabbè, voi di fatto l'avete fatto così, insomma, andate a casa attraverso un intervento di un atto siglato dal notaio. No, noi l'abbiamo fatto attraverso quello che è la normativa che prevede le dimissioni dei consiglieri, che per dimettersi hanno bisogno della contestualità e della contemporaneità. Vabbè. E l'abbiamo fatto, Minoli, in Campidoglio, non nello studio privato di un notaio. Vabbè, d'accordo. Ma... Poi, su questo... È difficile da capire, mi creda, per una persona normale. È difficile da capire, però io ci tengo anche qui. Marino, e lo dice una che nei confronti del sindaco ha avuto delle posizioni critiche molto prima che scoppiarono le vicende di Mafia Capitale, Marino non era nei cuori dei cittadini romani. Ma ce la siamo già dimenticata qual era il gradimento di quel sindaco? No, ma questo io le ho fatto una domanda diversa, insomma, se si capisce la differenza, a me sembra piuttosto complicato capirla senza delle spiegazioni molto tecniche. Senta, a Roma comunque, prima per colpa vostra con Marino, qualunque sia la modalità di espulsione di Marino dal comune, poi per questo immobilismo sostanzialmente incapace della Raggi, Roma è praticamente senza un'amministrazione da un anno. Non possiamo paragonare Marino a Raggi, noi abbiamo deciso di mandarla a casa con grande responsabilità, sì. Ma la giunta Marino e la giunta Raggi non sono assolutamente stati. Ma io non sto permettendo, non sto paragonando, sto dicendo che Roma non è governata, prima per una ragione, sì. E poi per l'altra. Mi chiedo, per voi è un problema o no? Cosa proponete? Assolutamente sì, è un problema e lo era anche prima, quindi a dimostrazione della nostra buona fede. Noi in questa fase chiediamo al sindaco di continuare ad andare avanti con quella che è l'amministrazione della città, se ci riesce, se è in grado, e vorremmo che tutto il Movimento 5 Stelle che l'ha votata e l'ha messa lì si assumesse un po' l'onere anche del governo della città. Senta, signora Di Biase, perché il tempo corre, voi avete perso le elezioni con Giachetti, però se si dovesse andare ad elezioni, per esempio, sarà ancora lui il candidato o no? Ne avete parlato? Non lo sapete? Assolutamente non è una discussione che abbiamo iniziato. E come lo scegliereste comunque? Con le primarie ancora? Immagino di sì. Senta, dovremmo cambiare il regolamento. Del Partito Democratico. Senta, la crisi politica di oggi però è la parte emersa dell'iceberg, quella sommersa è quella delle municipalizzate, cioè, sì. Il direttore generale di AMA è nominato in agosto, sì, si è messo in ferie, adesso pare che se ne andrà. Voi cosa proponete per Roma pulita? Perché nel frattempo per i cittadini questo è il problema. Per Roma pulita noi nella scorsa consigliatura avevamo... No, ma adesso cosa proponete? Adesso noi prima di tutto chiediamo che il sindaco ci dica come intenda concludere il ciclo dei rifiuti, perché ad oggi noi non l'abbiamo capito. Avevamo progettato gli ecodistretti noi, di cui uno era già pronto a partire e il sindaco Raggi l'ha bloccato. Speriamo che si faccia venire un'idea per quello. Assolutamente sì, e il potenziamento della differenziata che noi avevamo portato al 40% e che insomma anche qui abbiamo avuto tanti spot, cioè la porteremo al 70%, siamo abituati a tutti i livelli in tutti i partiti. Senta, l'ATAC, l'azienda dei trasporti, produce perdite a un bilancio praticamente da tribunale fallimentare, ma neanche il PD ha il coraggio di far fallire l'azienda. Perché? Non era meglio fare una bad company e ricominciare da zero? Guardi, il trasporto pubblico per definizione non è un trasporto remunerativo, cioè la tratta Finocchio Centocelle non è appetibile nei confronti dei privati. No, ma tra non essere appetibile e avere un bilancio di questo genere c'è in mezzo una buona gestione. C'è il ripensamento dell'intero trasporto pubblico locale, che non può essere più un trasporto pubblico cittadino, ma deve guardare all'area metropolitana, all'Interland. Sa quanti sono i cittadini che dai castelli, dai paesi limitrofi a Roma entrano a lavorare nella nostra città? Quanti come sono? Possiamo pensare? Tantissimi, ora il dato preciso non glielo so dire, ma tantissimi, cioè parliamo di milioni di persone che giornalmente da fuori il raccordo, dai paesi vicino a Roma entrano nella città. Senta Di Biasi, allora, dobbiamo stringere. Sì. Allora, abbiamo detto, non chiedete le dimissioni della Raggi, praticamente per lasciarle per lasciarle il cerino acceso nelle sue mani, diciamo, mi pare di capire. Sul PD Romano, principalmente da poco, che si bruci un po' le dita, sì, ho capito. Sul PD Romano Renzi aveva detto, perché parliamo di casa sua, che sarebbe stato necessario usare lanciafiamme, poi però nessuno l'ha usato. Come mai? C'è un lanciafiamme all'orizzonte oppure no? Veramente, sostengo un po' il contrario, che va bene così. Io sostengo che è stato usato un lanciafiamme in modo un po' indiscriminato, perché noi abbiamo utilizzato un metodo che alla fine ha in qualche modo frustrato anche quelle che erano invece energie positive. Sì, però senta cosa disse al tempo delle primarie il ministro Madia del PD Romano. Io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. Questo ministro Madia aveva torto, l'ha vista anche lei. È una donna coraggiosa, dice sempre cose impopolari, ma bene. Se ho visto, scusi, non ho capito. No, se ha visto anche lei quelle associazioni a delinquere. Ho visto molti concentrati di potere che utilizzavano luoghi come se fossero i loro e gestivano. Però voi non avete neanche un segretario cittadino, il commissario Orfini mi pare che non ha brillato. Lei è giovane, è capogruppo, è stata super votata, ma va tutto bene così? No, non va tutto bene così. Io parliamo del PD, sono impegnata nell'esercizio del mio ruolo, non va bene così, c'è molto da ricostruire. Il Partito Democratico lo deve fare tornando a parlare dei diritti e dei doveri dei cittadini. Quando ci sarà l'occasione pensa di candidarsi a sindaco Roma? Ma fatemi fare il consigliere comunale. Va bene, gliela facciamo fare. Sono stata eletta da 6 mesi, va bene. Già se riuscissi a far bene il mio mestiere sarebbe Senta, una cosa. Di Biasi, un'ultima cosa, dopo la direzione del PD di ieri, le elezioni secondo lei sono più vicine o più lontane? Secondo me c'è la necessità di andare al voto, ma la tempistica il più presto possibile, insomma, le parole di Del Rio mi sembrano assolutamente condivisibili. Va bene, grazie, buon lavoro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Beh, Mario, insomma, dopo Tronca il futuro della capitale è quella di avere una sindaca commissariata in qualche modo. Resto fermo a quanto scrissi e dichiarai prima del voto a Roma. A Roma serve solo una cosa: la troica, nient'altro. Non bisognava votare, bisognava tenere il commissario. Tronca aveva iniziato a fare le cose per bene, hanno voluto questa situazione tutti e se la tengono. Ma senti, secondo te Pietrangelo, questo fallimento iniziale dei 5 Stelle a Roma può essere la tomba dei Grillini oppure ci penserà il PD a dargli una mano? Il Partito Democratico dà una grande mano già nella costruzione del governo a livello nazionale, li aiuta tantissimo. Sulla scena romana bisogna ricordare che comunque il Partito Democratico aveva offerto il peggio di sé, rappresentando non tanto gli interessi della città ma soltanto di una piccola consorteria che coincide col potere e ancora una volta si ripresenta con questo volto. Senti, che ci fai ascoltare oggi? Eccola. Once long ago I belonged to a boy. I was a porcelain soldier dressed toy. Life was as perfect could be. Allora, e oggi per strada strada solo trenini, erano tutti in marcia verso i caminetti da dove scendere per arrivare sotto i letti dei bimbi in attesa del Natale. E poi c'erano giostre, cavallucci di peluche, soldatini di piombo, di legno, di stagno, tutti in marcia verso i davanzali. E c'erano anche automobilini per strada, modellini in viaggio verso le camerette dei piccoli. Ha chiamato Tristano, ha chiamato Perisotta, ha voluto questo brano con un messaggio. Ma lo sai che col maggiolone, anche quando è un modellino, si va che è un piacere? Beh, allora Mario, la tua bolla? Tu lo sai che nella vita una cosa molto importante è quella di essere sexy. A tutti i livelli. Perché aiuta, se no, molto, aiuta non molto. Non solo le persone, ma anche le cose e le istituzioni. Per cui... entusiasmo alle stelle in regia. Cioè, ma il Monte dei Paschi è sexy? E questa è la domanda. E chi lo sa, questo è un pezzo straordinario, una voce meravigliosa, Rod Stewart. Vediamo di farlo sentire ancora. Sì, sì. Dai. Allora, sì, bisogna vedere se è sexy, lo scopriremo oggi, perché il Monte, il management del Monte, i dirigenti del Monte dei Paschi hanno deciso di perseguire in extremis, devo dire una cosa un po' da thriller, la via del finanziamento privato, cioè della ricapitalizzazione, non attraverso i soldi pubblici. È stato riaperto, come sapete, la conversione volontaria. Anche perché i tedeschi sono stati durissimi. Mamma mia, una durezza. Totale, totale. Devo dire che non hanno tutti i torti. Hanno riaperto appunto la conversione volontaria delle obbligazioni subordinate e che si chiude mercoledì alle 14. E devo dire che su questo poi eventualmente si costruisce tutto il resto. Cioè, se dovesse andar bene, cosa su cui gli osservatori più attenti sono scettici, allora potrebbe perfino, ma veramente perfino stiracchiatissimo, riaprirsi una via per l'ingresso di soci privati nuovi, fondo del Qatar e così via. Difficilissimo, francamente. Una strada molto complicata. No, molto, molto, molto complicata. Gli investitori istituzionali sono scappati tutti. Anche per gli effetti tutti. A catena che potrebbe avere la mancata ricapitalizzazione. No? Entriamo in quella che... Un giallo finanziario globale. Nowhere, non si sa dove si va. Cioè, a questo punto noi potremmo avere due ipotesi. Per esempio, lo Stato è già azionista, al 4% il tesoro, quindi potrebbe partecipare a, diciamo, all'aumento di capitale per la sua quota, e questo, vabbè, mette 200 questo... milioni, adesso non mi ricordo esattamente quanto è preciso, ma questa è. E questo nessuno dice niente. Il problema è che se si va corti con la conversione, certo, eccetera, poi resta, ne sempre, mancano tanti. Resta sempre quel che si chiama cucuzzaro da 5 miliardi. Certo. Allora che si fa? Entra lo Stato, mette un miliardozzo, per dire. Entriamo in quello che si chiama aumento precauzionale. Vabbè, insomma, diciamo l'aumento che... precauzionale, aspetta, si porta dietro la conversione forzata, sì, vabbè, dei bond subordinati. Avremo modo di parlarne nei prossimi insomma, giorni. Insomma, se hai capito una cosa, non è sexy. Non è sexy questa cosa qua. Mi pare che lo Stewart stavolta non ci piglia. Senti, io vorrei, prima di fare il salamino, vorrei dare un consiglio ai nostri ascoltatori. Consiglio di vedere, se possono, un programma bellissimo che va in onda questa sera alle 23.50 su Rete 4, nel programma Confessione Reporter di Stella Pende. Perché Stella. Lo consiglio? Lo consiglio perché racconta le storie delle brigate de mer, cioè delle mamme che combattono per salvare ragazzi a rischio della jihad, di un imam anti-ISIS, cioè una puntata che racconta bene e fa capire bene perché la Francia è la più esposta, la più attaccata. Una puntata da non perdere, se è possibile. È cultura. Salamino! Doveva fare il ponte di Messina. Doveva fare il ponte di Messina, non è riuscita a fare il ponte dell'Immacolata, e così Matteo Renzi, giorno 22, giovedì prossimo, si perde l'inaugurazione della finalmente completata autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'acqua di la fontana è amara, amara. Amara, amara, e completata all'ANAS però l'ardua sentenza, ma anche ai collaudatori, perché per la messa in sicurezza bisogna aspettare il 2018. Una lunga storia, dice oggi sul Corriere della Sera Paolo Mieli, che è storico, va da sé, e tutto infatti comincia con Amintore Fanfani, che nel 1962, 54 anni fa, mette e pone la prima pietra e dice: opera destinata a essere conclusa in tempi ragionevoli. Oh, tempi ragionevoli, quindi 54 anni ci vogliono per 494,9 chilometri. Non è stata mai percorribile senza alcun cantiere, perché già per esempio negli anni 70 si scoprì che non poteva considerarsi autostrada perché aveva due corsie strette, non c'era neppure quella d'emergenza. Insomma, giovedì Paolo Gentiloni, e non avendo potuto Matteo Renzi fare il ponte, si metterà alla guida per inaugurare il traguardo atteso. Ma c'è un dettaglio, perché sono da considerare come fine dei lavori, non quindi come completamento. Ed è un vero peccato per Matteo Renzi, anche perché lui, ricordate? Nel maggio scorso il rottamatore inaugurò la Palermo-Catania, l'autostrada col pilone crollato, tagliando il nastro su una corsia chiusa senza motivo, su cui non c'era stato nessuno, manco un intervento. Quindi questa è l'ottima premessa per inaugurare ciò che ancora è da completare. Corri! Il 25 febbraio scorso ai giornalisti stranieri Renzi dichiarò solennemente che giovedì, cioè il 22 dicembre, avrebbe celebrato la chiusura dei cantieri percorrendo quella via, e lo ricorda Mieli oggi, dal primo all'ultimo casello. Oh, tanto per cominciare, non ci sono caselli sulla Salerno-Reggio Calabria, ci sono solo nastri di inaugurazioni fatte nell'imminenza della realizzazione. Li vogliamo ricordare? Nel 2010 tentò di inaugurare Berlusconi, nel 2012 tentò di inaugurare Corrado Passera, nel 2013 tentò di inaugurare Mario Monti, poi Enrico Letta invece non si sbilanciò. Si tenne, lo vogliamo ricordare, moderatamente sereno. Insomma, ancora una volta la morale è una sola: Cristo è o paese... C'è una bolla veloce? Sì. Go Robot. Allora? Ti informo che la NATO ha deliberato, quindi tutti i paesi che fanno parte della coalizione, Italia compresa, finanziamento da 390 milioni di euro per... anzi, dollari, scusami, sono... ma cambia poco... per una serie di progetti per l'esercito afghano. Ricordo che il 7 ottobre del 2001 cominciò la campagna in Afghanistan, 15 anni e il nation building non è ancora finito. Non un pozzo senza fondo. Non male, un pozzo senza fondo. E io vi ricordo che oggi naturalmente la storia che raccontiamo è la storia di Henry Kissinger, il potente, controverso segretario di Stato americano, uno degli uomini politici chiave del XX secolo. E intanto oggi Gloria Guerrera cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi sa sbagliare da solo e bene, sa allontanarsi da tutto, ma con una sola eccezione: Ligabue, Ho messo via. Ho messo via un po' di illusioni e prima o poi basta così. Ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dico noi, più facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via quel po' di cose ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. segni quelli non si può, e non è il male né la bada, ma purtroppo è livido. Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere, sia su rimorsi che rimpianti, che rancori e sui perché. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è, ce ne sarà. Ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via te. Ho messo via un po' di cose, ma non mi spiego mai perché.